Salvini è accusato di un reato molto grave, il sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale e dal fatto che le persone sequestrate erano minorenni, ed è un reato che prevede pene che vanno dai 3 ai 15 anni di reclusione. Il fatto per cui è stato mosso questo rimprovero è il caso di quei 177 migranti che erano stati trattenuti sulla nave di Ciotti nel porto di Catania per 5 giorni prima che fosse concessa l'autorizzazione allo sbarco. E appunto la novità di questi giorni è che mentre la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione del procedimento sulla base del fatto che si trattava di un atto politico del governo che non era sindacabile dai magistrati, è arrivata ieri invece la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania, che invece ha disatteso la richiesta del procuratore e ha chiesto l'autorizzazione a procedere dal Parlamento, in quanto per i reati ministeriali è comunque sempre necessaria l'autorizzazione parlamentare. E in questo provvedimento, che è un provvedimento a differenza della richiesta di archiviazione, questo invece è un provvedimento molto ben motivato, si individuano le ragioni per cui secondo il Tribunale va sottoposto a processo Salvini e si risponde soprattutto per l'argomento della natura politica dell'atto. Si dice chiaramente che in un sistema costituzionale come il nostro, la natura politica di un atto, quando quest'atto va a incidere sui diritti fondamentali, non sottrae l'atto dal controllo di legittimità, perché appunto in un sistema in cui vi sono delle fonti sovraordinate alla legge, è inimmaginabile che un atto del governo sia al di fuori del sistema di legalità. Deve poter essere controllato dalla magistratura, specie quando, come in questo caso, quest'atto politico comporta delle violazioni gravissime dei diritti fondamentali. Allora, prima di entrare appunto un pochino più nel merito della questione proprio giuridica, ti chiederei se mi puoi spiegare bene la distinzione tra l'ambito, diciamo, politico, che comunque esiste, Salvini sta rivendicando molto di questo procedimento, e invece la sfera giudiziaria, perché appunto si è parlato della divisione dei poteri, di come si influenzino, però c'è appunto tutto un fronte che è prettamente giudiziario. Sì, in effetti è importante sottolineare, cioè, fissare bene anche il concetto di separazione dei poteri, che era stato, a mio avviso, impropriamente invocato proprio dalla Procura di Catania per chiedere l'archiviazione. E qui non significa che con questo provvedimento la magistratura decida qual è la politica in materia di immigrazione. Significa semplicemente che la magistratura richiama l'autorità di governo a quelli che sono i limiti che qualsiasi scelta politica non può oltrepassare. Perché in un sistema democratico la politica, il governo, ha dei limiti, e questo deve essere ben chiaro, mentre sembra che il ministro Salvini non abbia chiara questa consapevolezza. E i limiti sono il rispetto della legge, delle normative sovranazionali, cioè delle convenzioni internazionali che impongono di far sbarcare i soggetti in un luogo sicuro, e la politica deve rispettare appunto normativa internazionale e i diritti fondamentali. Se ci sono in gioco i diritti fondamentali di tutti, non solo dei cittadini, ma di tutte le persone umane, questi diritti si impongono sulle scelte politiche e pongono dei limiti a queste scelte. Ecco, con questo provvedimento la magistratura fissa questi limiti. Non si possono sequestrare le persone per portare avanti una trattativa in sede europea, perché questo è proprio di uno Stato autoritario, non di uno Stato di diritto. In uno Stato di diritto le persone non possono essere strumentalizzate per delle finalità politiche. E credo che sia molto importante che la magistratura abbia preso questa posizione forte, e credo che queste indicazioni che vengono da questo provvedimento debbano essere tenute in considerazione anche nei casi attuali, il caso ad esempio di queste ore, il caso di Sea-Watch, caso molto simile. Il governo ha il dovere di far sbarcare questi soggetti e di individuare un porto sicuro. Dopo potrà fare tutte le valutazioni politiche che crede, potrà fare tutte le negoziazioni con gli altri paesi europei per la distribuzione degli stranieri, ma non può sequestrarli per una finalità politica. Ecco, questo emerge molto chiaramente dal provvedimento del Tribunale. E appunto, visto che citavi il caso della Sea-Watch, un'altra cosa che ti volevo chiedere è quale differenza c'è tra il caso della Diciotti e poi tutti i casi che vi hanno fatto seguito, perché poi il tema della chiusura dei porti appunto l'abbiamo risentito con la Sea-Watch SI, con la Sea-Watch adesso, cioè cosa cambia? Una differenza significativa è il fatto che nel caso della Diciotti questi soggetti erano su una imbarcazione italiana, battente bandiera italiana e addirittura una nave militare italiana, quindi in quel caso non vi era nessun minimo dubbio sul fatto che fosse l'Italia a doverli accogliere. La differenza nel caso attuale della Sea-Watch è che si tratta di una nave che invece batte bandiera olandese, quindi non di una nave italiana. Però una volta che la nave è entrata nelle acque italiane, una volta che l'autorità italiana ha assunto il coordinamento dei soccorsi, anche se si tratta di una nave bandente bandiera di un altro Stato, è comunque lo Stato italiano a dover fornire il primo soccorso e a doverli far sbarcare. Quindi anche in questo caso io credo che se continuerà questa politica del governo di porti chiusi, credo che si riporrà un problema ancora una volta di commissione di reati da parte del Ministro degli Interni. Poi un'ultima cosa che forse può essere interessante: si continua a parlare di porti chiusi, a livello mediatico si dà per scontato che questi porti siano chiusi, a livello formale non c'è mai stato nessun provvedimento di chiusura dei porti. Come associazione, come ASD, abbiamo fatto anche una richiesta formale ai ministeri per conoscere questi eventuali provvedimenti. I ministeri ci hanno risposto che i porti sono aperti perché non è mai stato formalizzato la loro chiusura. E questo è un dato su cui riflettere. La politica, cioè le scelte dell'autorità amministrativa, vengono fatte sulla base di un tweet del ministro. Ecco, questo anche qua siamo al di fuori della legalità. I porti devono essere chiusi, ci deve essere un provvedimento amministrativo che ne dispone la chiusura e ne indica le ragioni. Tutto questo non c'è, quindi siamo ancora una volta fuori dalla cornice di legalità che deve essere rispettata da tutti, anche dai ministri ovviamente. Questo sembra in questo momento che al ministro Salvini non sia chiaro. Tra l'altro questa è una cosa che abbiamo visto anche quando poi il DL Salvini è stato tramutato in legge e si è iniziato ad allontanare i titolari di protezione umanitaria, che appunto c'era stato un invito ma non scritto, diciamo, ad allontanarli. Quindi c'è un po' questa tendenza al prendersi responsabilità politiche e rivendicarle magari, però poi a non prendersi quelle effettivamente giuridiche, insomma. Esatto, è molto pericoloso e non è soltanto un formalismo, probabilmente appunto a livello mediatico le mie argomentazioni sono considerate dei formalismi, ma non è un formalismo, perché se io devo scrivere un provvedimento amministrativo devo indicare le ragioni per cui adotto questo provvedimento, e sarebbe molto difficile giustificare perché si chiudono i porti, perché i porti si possono chiudere se ci sono delle ragioni di ordine pubblico, se ci sono delle ragioni di sanità pubblica. In questo momento ragioni di questa natura non ci sono, per questo non viene scritto un provvedimento, perché molto probabilmente sarebbe un provvedimento illegittimo. Allora, per evitare il controllo dell'autorità giudiziaria, il controllo anche dell'opinione pubblica su quali sono le ragioni del provvedimento, che cosa si fa? Non lo si scrive neanche, si scrive un tweet. Ecco, questa è proprio la deriva e la negazione di uno Stato di diritto, perché uno Stato di diritto si deve fondare su atti che possano essere discussi, sulle loro ragioni e sulla loro legittimità, non su dichiarazioni estemporanee di un esponente politico. Se il Senato darà l'autorizzazione a procedere, quindi si inizierà con l'indagine, in quel caso le autoconfessioni di Salvini ripetute in questi giorni avranno un valore? Beh, avranno un valore, sarà poi sentito, sarà ovviamente data la possibilità di essere presente nel processo. Un valore processuale in senso stretto, no, non come dichiarazioni autoincriminanti, no. Possono essere tenute presenti ovviamente per ricostruire il dato fattuale, ma d'altra parte sembra un dato difficile da negare, perché nel questo provvedimento del Tribunale sono stati sentiti diversi collaboratori di Salvini, prefetti e collaboratori di Salvini che sono il suo capo di gabinetto, che ricostruiscono effettivamente qual è stato l'iter della vicenda e individuano proprio nella decisione politica di Salvini l'unica ragione per cui non erano stati fatti sbarcare gli stranieri. Quindi certamente poi il processo, se ci sarà l'autorizzazione, andrà fatto, ma sul punto che ci sia stata una decisione politica di Salvini credo che sia un dato difficile da contestare.